Dalla lettera agli Ebrei, fratelli, Cristo è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte il riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore, e non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Siamo ancora nella lettera agli Ebrei, questo lungo scritto che è più un'omelia che non una lettera in cui veramente si vede la descrizione del sacerdozio di Cristo. È l'unica lettera in tutto il Nuovo Testamento in cui è chiaro e in cui si spiega proprio la figura di Cristo come sacerdote, come intercessore, come mediatore. Perché abbiamo bisogno di un mediatore? Perché l'uomo tende sempre a allontanarsi da Dio, tende sempre a essere egoista, tende sempre a mettere se stesso al centro di tutto. Allora ecco che abbiamo bisogno di Dio stesso che ci avvicina a Lui e che ci fa vedere il suo vero volto, perché l'uomo è sempre alla ricerca del volto di Dio, perché è alla ricerca della felicità. Ma cerca di costruirsela da sola e così facendo però trova sempre insoddisfazione. Ecco perché abbiamo bisogno della mediazione di Cristo. E Cristo è morto per noi ed è risorto. E qui dice una cosa molto importante questa lettera agli Ebrei. Dice come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta, apparirà una seconda volta. Ecco, qui si dice chiaramente che gli uomini muoiono una sola volta. Quindi è chiaro che il cristianesimo non è compatibile con la reincarnazione. Noi crediamo nella resurrezione, non nella reincarnazione. La reincarnazione è un riprendere. Cioè la propria anima continua a prendere nuove forme, nuovi corpi e questo vuol dire reincarnarsi, cioè in base a quanto operato nella vita precedente ci si rincarna in un altro essere, con sembianze diverse per continuare la purificazione della propria anima. Però vedete, la reincarnazione come la intendiamo in Occidente è molto diversa dalla reincarnazione come la intendono in Oriente. In Oriente il concetto di reincarnazione è veramente un concetto negativo, ossia che cosa crede ad esempio il buddista? Il buddista crede che la reincarnazione è necessaria per purificare la propria anima. Perché la propria anima, se non è purificata, ha bisogno appunto di reincarnarsi. Quindi la reincarnazione è una condanna ed è un fatto provvisorio, perché il fatto definitivo è non reincarnarsi più e dissolversi in un io impersonale superiore che nessuno sa che cosa sia. Invece, per noi cristiani, no, invece per gli occidentali la reincarnazione è come un supplemento di tempo, come i tempi supplementari di una partita, ossia si ha ancora la possibilità di continuare a vivere su questa terra. L'occidentale vede la reincarnazione come un fatto non solo provvisorio e lo vede come un fatto positivo, ma di per sé la reincarnazione è un fatto negativo. E infatti sarebbe terribile dover affrontare non una morte, ma tante morti. Invece il Gesù Cristo non è venuto a portarci la reincarnazione, ma la resurrezione, cioè un modo di vita completamente diverso e bello e eterno. E questo ce lo garantisce oggi la lettera agli ebrei, dice come per gli uomini è stabilito che muoiano una volta sola, quindi niente reincarnazione, noi crediamo nella resurrezione. E credere nella resurrezione rende quindi il tempo che stiamo vivendo oggi, il tempo presente, come un tempo unico che non ritorna più. Allora oggi, il proposito di oggi potrebbe essere questo. Cerchiamo di impiegare bene il tempo, di non sprecarlo, di viverlo bene. E che cosa vuol dire viverlo bene? Ecco, per me il motto che appunto sapete tutti che ripeto sempre è vivi l'attimo e riempilo d'amore. Vivi l'attimo presente e riempilo d'amore e sarai sempre felice. Allora facciamo proprio questo proposito. E per concludere vorrei citarvi una frase di Darwin che dice così: un uomo che osa sprecare un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Un uomo che osa sprecare un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Buona giornata.